This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, gentili ascoltatori e ascoltatrici, 21 e 13 minuti primi. Siamo in diretta, questo è This Is Not An Exit. Radio Città del Capo, siete in streaming, siete in FM, non lo sappiamo. Comunque, se siete in FM vi ricordo 94.7 o 96.25 se non sentite bene una delle due frequenze, scusate. Diretta con The White Zombie questa sera. Però se qualcuno ha visto il nostro post nel nostro blog, si chiama thisisnotanexit.altervista.org, l'ho intitolato White Zombie e Pornocultura. Eh sì, perché questa sera abbiamo anche un ospite oltre ai nostri dottor Corries e dottor Scarpa in studio. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Sì, davvero una puntata speciale oggi, possiamo dirlo, vero Nicola? Sì, possiamo dirlo. Specialissima. Questa sera abbiamo zombie in studio. Sì, è proprio così. E a parte i zombie in studio, abbiamo anche un ospite telefonico, perché mi è venuto in mente di intitolare la puntata White Zombie e Pornocultura, perché già dal primo brano che abbiamo messo questa sera c'erano i classici, come dire, suoni. Ecco, quelli che potete sentire in tanti film porno. Noi da propri consumatori di pornografia, in VHS ovviamente, ne siamo abbastanza, come dire, consci e esperti, ma non siamo assolutamente esperti di pornocultura. Ma a questo proposito proviamo a metterci in contatto con Claudio Timonelli in diretta da Bari, vero? Sì, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, da Bari. Claudia, buonasera. Benvenuta in diretta qua con noi. Allora, noi siamo partiti dai White Zombie, spero tu abbia sentito l'introduzione, non so se sono stato corretto, l'esperta sei tu in questo caso, noi siamo esperti di musica e in misura magari maggiore di pornografia, ma questo è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia, e poi comunque mostrare in radio è un po' difficoltoso, ma comunque fin da ragazzo quando ascoltavo White Zombie mi ricordo che era pieno di sicuramente a riferimenti horror, perché già il nome penso venga da un vecchio film horror degli anni 50 o giù di lì, ma c'erano anche altri riferimenti che erano tipici delle sottoculture metal, noise, ma non solo, stavano facendo le prime comparse probabilmente in questo album. Soprattutto la pornografia era ancora, come dire, in questi inizi 90, almeno qua in Italia, qualcosa di torbido. Intanto vorrei provare a... Vi ringrazio intanto per l'invito a chiacchierare un po' di pornocultura. L'associazione con White Zombie e quindi le culture underground funziona molto bene, perché è quello che ha permesso il passaggio da quella che io e Vincenzo Susca in questo libro abbiamo definito dalla pornografia alla pornocultura, anche se voi dite di non esserne esperti, in realtà noi siamo in una condizione di pornocultura attualmente, perché questa è avvenuta proprio nel momento in cui c'è stato il passaggio del web dall'1.0 al 2.0, ovvero nel momento in cui si è potuto iniziare ad inserire dei contenuti a partire dagli utenti. La famosa formuletta user generated content, il fatto che si possa riempire di contenuti porno erotici o porno horror o porno, insomma tutte le categorie che possiamo immaginare, fa sì che lo scenario del porno cambia radicalmente. Facendo un passo indietro, perché ci tengo a riprendere il filone delle culture underground collegate con il porno, di sicuro possiamo dire che, ad esempio, già a partire dal proto-punk americano, con quel filone che è stato seguito moltissimo da un regista underground che si chiama Richard Kern, qui tra l'altro c'è una compilation di lavori eccezionali che si chiama The Right Side of My Brain, a New York Underground Collection, con Lydia Lunch e varie altre attrici. Si è capito molto bene che il punk poteva essere un luogo dove si poteva sperimentare molto la scoperta del corpo e del corpo porno. Non so se vi è mai capitato di vedere questi corpi di Kern. Sì, grazie ai suoni cute. Esatto, sono molto legati ad uno scenario abbastanza cupo, gotico, spesso sono in bianco e nero, non sono assolutamente curati, hanno una trama punk, è proprio una modalità di fare del porno completamente diversa da quella che era invece predominante nell'industria cinematografica della pornografia, cioè quella più allegra, più gioiosa, più divertente. Questo filone aveva esasperato molto l'aspetto del sadomasochismo, del feticismo, veniva addirittura definita porno punk, art degenerata, fu addirittura accusata alle volte di estetiche fasciste, perché questo bianco e nero e questa cultura dell'estremo rispetto alle pratiche sadomaso venivano etichettate spesso appunto con una sorta di immaginario destrorso, che in realtà invece non avevano. Beh, allora non siamo andati del tutto fuori strada, sono contento. No, assolutamente no, anche perché nel libro ci siamo occupati di tutto ciò che è riuscito a fungere da iniziazione ad uno stile di porno erotismo che fino a prima del web 2.0 era caratterizzato soltanto da due luoghi principali. Uno era il cinema porno e l'altro era la rivista porno. Però tanto il cinema porno quanto la rivista porno erano dei luoghi ad esclusivo target maschile, intanto. Se una donna avesse voluto andarsi a vedere un film porno, sarebbe stato alquanto strano, perché non erano pensati per lei, per i suoi desideri o per quello che una donna si poteva immaginare di vedere. Magari veniva portata dal fidanzato che la portava al cinema, però non era un'iniziativa individuale. Così come la rivista, ancora di più, non c'erano riviste porno dedicate ad una molteplicità di desideri in ambito sessuale. Quindi questo scarto, l'inizio delle chat, l'inizio dei forum, l'inizio dei luoghi dove si poteva interagire direttamente attraverso uno schermo, quindi l'inizio della cultura della rete, ha generato la possibilità di immettere contenuti porno e quindi ha scardinato completamente la parte iniziatica della vicenda, cioè la difficoltà, la trasgressione, il fatto di nascondersi, di andare a cercare, di farsi passare le riviste da fratelli, amici, tutto quel regime che la rendeva effettivamente una ricerca difficoltosa oppure da nascondere, trasgressiva. Con il web invece ciascuno nella propria cameretta a un certo punto ha iniziato a capire che poteva digitare delle parole e vedere se qualcuno da qualche altra parte del mondo avesse messo, parlo del primo web chiaramente, avesse messo dei contenuti porno. Sono state le prime ricerche probabilmente che sono state effettuate dai primi navigatori in rete. Assolutamente, anche se qua nel nostro caso siamo ancora, questo brano del 1995, pochissime persone, giusto, gli universitari avevano accesso al web, ma certo, probabilmente anche gli universitari facevano queste ricerche. Beh, per adesso ti interrompo, poi ci riprendiamo dopo un brano. Grazie intanto. Grazie a voi. Yeah. Eccoci qua, ancora in diretta, 21-28 minuti primi, sempre con i White Zombie. Siamo più o meno nel 1992, il loro terzo album. Un gruppo molto innovativo per l'epoca, quantomeno perché oltre c'erano tantissimi gruppi che venivano chiamati, etichettati crossover. Loro mettevano dentro un sacco di groove, anche in un genere che era parecchio metal di base, che era una cosa parecchio inusuale, li rendeva praticamente ballabili, anzi, si ballavano molto facilmente. E poi erano innovativi sotto molti aspetti, un sacco di campionamenti da B-movie, in questo caso da Faster Pussycat Kill Kill Kill, che è un film bianco e nero del 1965, che viene da un genere che si chiamava, se non sbaglio, Sexploitation. Dico bene, Claudia? Sì, mi sono molto incuriosita per l'associazione con, in effetti, all'inizio White Zombie e pornocultura, perché mi incuriosisce molto il fatto che apparentemente potrebbe sembrare che musicalmente non vi siano connessioni, no? tra porno e questo genere musicale. In effetti c'è un larghissimo filone del porno che abbiamo trattato nella nostra ricerca nel terzo capitolo. Il terzo capitolo si intitola Augmented Libido, che riguarda proprio il porn horror. Quindi un filone ben preciso del porno, definito alle volte horror porno, porn horror, all'interno del quale si trovano tutti i vari generi di sexploitation, e in particolare quello su cui mi sono soffermata con un certo gusto, perché aveva degli aspetti anche molto curiosi, è il sottofilone del nunsploitation, ovvero quello che ha a che fare con i temi religiosi e le suore. Perché in effetti mi sono resa conto che c'erano degli ambiti della cultura che fa riferimento al porno, ma che è un po' più oscura, più cupa, più appunto punk, che prendeva direttamente due direzioni opposte. Una, il filone non-exploitation legato alle parodie, e quindi quei film anche tipicamente italiani in cui ci ritroviamo una sorta anche di commedia all'italiana, un po' porno erotica, quindi più ridicolizzante. Si tratta di gore, parodie, con il classico scenario, quello di una donna che viene richiusa in un convento, e in questo convento però subisce una serie di fatti assurdi, cerca di scappare, torture, molto ridicolizzato. Però nello stesso tempo questo stesso ambito ha dato invece origine a un filone effettivamente porn horror, laddove la tortura diventa orrorifica, al punto tale che si sono realizzate delle pellicole, alcune delle quali fanno più parte del genere horror che non del genere porno. Cioè il porno interviene nel momento in cui la tortura ha come obiettivo gli organi sessuali, però di base nasce come genere horror. E quindi mi sono cimentata con una serie di titoli, alcuni dei quali sono anche come dire, ridicoli, e altri invece ci fanno capire come il genere sia stato, appunto, il genere exploitation significa che si tratta di un genere di cui si è abusato, con delle caratteristiche ben precise, e per le quali si è capito che poteva funzionare a livello di mercato. Fin dagli anni 60. Fin dagli anni 60, e quel genere lì, anzi non solo fino agli anni 60, ma in particolare negli anni 60 fino ai 70, perché si tratta di generi che avevano come obiettivo quello di criticare i costumi sociali dell'epoca, e quindi la predominanza di uno stile decoroso dei costumi, di una morale molto ferrea, e quindi si schieravano contro il clero. Finito questo grande mostro contro cui spegliarsi, il genere è diventato molto meno accattivante. Però, giusto per citarvi dei titoli, per capire anche un po' le differenze tra quelli più ironici, tipo Alice nel paese delle porno meraviglie, Le avventure erotiche di Pinocchio, che aveva come sottotitolo "Non era il suo naso che cresceva", oppure Claudia, ne approfitto, adesso mi hai fatto venire in mente il titolo di un film bellissimo secondo me, perché secondo me è l'esasperazione del trash, del porno un pochino, no? più depravazione, che si chiamava Il Pornocchio, non so se conosci. Il Pornocchio, certo, perché tutto il gioco, il genere non-exploitation, come in particolare tutti i vari, anche black-exploitation, sex-exploitation, giocano comunque sulla parodizzazione già a partire dal titolo, cioè sono delle altre versioni di o testi o romanzi o film precedenti, diciamo, tutt'altro stile e genere. Per cui le avventure erotiche di Pinocchio e Pornocchio, ma ce ne sono davvero tantissimi, giocavano proprio sul sistema del capovolgimento di scenari o romanzi, ma anche la stessa storia di Justine, del Marchese de Sade, è stata data in questa versione. Oppure "Metti lo diavolo tuo nello mio inferno" di Vitto Albertini, "Leva lo diavolo tuo dal convento", erano anche in costume molti di questi. Fino invece, allontanandoci da questa parte appunto più parodistica, ad un genere più meno commedia sexy, porno erotica, ma invece appunto più horror, con titoli tipo Rape, oppure anche Suore Omicidi, The Sisters of Satana, Flavia the Heretic, la scuola penale. A questo genere se ne associa un altro, adesso mi stavo dimenticando, ovvero di sfruttamento non solo della tortura legata al tema religioso, ma legata al tema della prigione, perché anche quello era un altro topos abbastanza tipico. Quindi Faster Pussycat era, come dire, roba da educande, a proposito. In un certo senso non era roba di educande, era roba pionieristica, cioè era riuscita a cogliere e a dare una chiave addirittura musicale ad un tema, ad un argomento che aveva una valenza, potremmo dire, transpolitica allora, cioè era davvero di rottura. Parlare di quelle cose significava agire in maniera militante contro un sistema estremamente soffocante rispetto ai costumi e alla morale. Tant'è vero che, ripeto, intorno agli anni Ottanta questo filone si è proprio andato perdendo, con molto rammarico poi dei cultori del genere. E gli unici luoghi dove continua ad essere sperimentato il filone religioso porno horror sono proprio, ahimè, quei luoghi che abbiamo trattato in un breve capitolo che ho intitolato "Fatwa contro il porno", ovvero quei luoghi dove la religione continua ad essere molto dura rispetto ai costumi. Ma Carla, scusami se ti interrompo, adesso sì. Mi approfitto perché io ero un gran patito lettore di questa rivista che usciva, se non ricordo male, fine anni 90, che si chiamava Nocturno, che trattava forse in maniera molto così sporadica anche di questo tema qua. E ricordo una casa che produceva film americana che erroneamente, secondo me, venivano etichettati come trash americano. Però effettivamente tra questi c'era il filone nazi porno, cioè bastava la donna o l'uomo con la divisa nazista e diventava subito culto film già etichettato in questo modo qua. Ora io ricordo anche che in Italia, parlando anni 70, fu etichettato anche Pierpaolo Pasolini, regista nazi trash porno o qualcosa del genere. Sei qualcosa a proposito? Adesso mi vengono questi dubbi così. Ah, ma quello mi sa che sia le ultime giornate, Salò, le ultime giornate di Sodoma. Sì. Comunque magari ne parliamo dopo il prossimo brano. Ok. Holocaust, the house, kick out the mirror, and break down agony after the ecstasy ain't over. White Zombie a This Is Not An Exit. I White Zombie, oltre a fare i loro classici album, fecero anche un album di remix che si chiamava più o meno Swing, com'è che è? Surprising Swing Sounds, che aveva in copertina la tipica coniglietta di Playboy in posa e anni 60, e anche la copertina era in pure stereo, quelle copertine dei 45 giri degli anni 60, quindi a richiamare un'epoca che fu, quella di cui stavamo parlando anche prima, quella di Faster Pussycat, dove era proibito, se no nel vero underground, mostrare, come dire, quelle che venivano definite oscenità, dico bene? Certo, era assolutamente proibito, per questo dicevamo poco prima che si trattava di un atto, di un gesto, di una riappropriazione del corpo e di una spettacolarizzazione del corpo. Mi viene infatti anche da dire che tutto questo era stato anticipato a sua volta, prima quindi del periodo musicale che stiamo trattando, da un movimento abbastanza radicale, estremo, che era l'azionismo viennese. Si trattava di un movimento artistico che usava il proprio corpo come veicolo di espressione artistica, ma laddove il corpo veniva martoriato, tagliato, scorticato in performance pubbliche, quindi non era un'arte espressa attraverso quadri o diciamo scenari visuali, quanto proprio live performance, che poi venivano documentate con film, video o fotografie, ma era il momento in cui bisognava mostrare in certi luoghi e dare una sorta di shock, perché il porno in effetti con il cinema, con la fotografia è nato con questa spinta fortemente scioccante, trasgressiva. Infatti uno dei principi che ci siamo dati io e Susca nella scrittura di questo testo è stato proprio quello di rinvenire nella condizione contemporanea in cui l'accessibilità ai contenuti porno è di tutti, è per tutti, cioè attraverso l'età, attraverso i generi e attraverso anche i gusti, in maniera del tutto trasversale ed eterogenea. Il vietato ai minori non esiste più. No, non esiste più. Questa condizione, che per questo l'abbiamo chiamata pornocultura, non è più la vecchia pornografia, ha dato origine ad un fenomeno abbastanza evidente, ma che non dobbiamo trascurare perché ci aiuta a capire molte altre questioni della nostra società. Il fatto che si è pornificato il quotidiano, cioè noi troviamo contenuti che sarebbero stati giudicati porno tanti anni fa, li troviamo ovunque. Sì, anche nella pubblicità. Ma non solo nella pubblicità, anche per esempio il fatto che le manette, che erano un accessorio sdoganato da Madonna in alcuni videoclip degli anni 90, che però comunque nessuno se non nei sex shop sarebbe stato capace di farli, adesso le troviamo dalle catene d'abbigliamento che le fanno con il dorsino peloso, ma fino anche al mercato, così come tutto quell'abbigliamento che è nato col punk, ovvero le calze, le autoreggenti strappate, quella lingerie estremamente provocante, adesso la si trova a 5, 6, 10 euro in luoghi dove se ne possono comprare anche facilmente di tutte le taglie, di tutte le fantasie. Quindi c'è stata una pornificazione del quotidiano. Lo vediamo anche dalle pose che i giovani, più giovani, con giovani intendo proprio gli adolescenti, ecco, le pose che gli adolescenti adottano nei propri profili sui social, hanno una fortissima carica erotica, vanno verso un immaginario che ammicca il porno, in particolare il modo in cui si fotografano dall'alto verso il basso, le labbra semi aperte, ci sono dei profili che sono estremamente erotizzati. A questa pornificazione del quotidiano e poi è corrisposta anche una strana edulcorazione del mondo del porno, ovvero l'accessibilità fa sì che non vi sia più quell'aspetto trasgressivo. E dunque uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato quello di chiederci se ci sono ancora dei luoghi dove in effetti si riscontra quella parte iniziatica, quella forma di trasgressione, quella forma di shock che il porno tradizionale conferiva e dava, proprio perché era difficile da trovare, bisognava procurarselo, non era per tutti e bisognava nasconderlo. Quindi uno di questi è stato proprio il filone più dark, quello più horror, andando a pescare fino anche nella zona più cupa del web, il cosiddetto deep web / dark web, che abbiamo trattato in alcuni paragrafi, e gli aspetti appunto più morbosi, scoprendo, almeno questa è una mia ipotesi, scoprendo che però proprio lì dove uno si aspetterebbe di trovare i contenuti più truci e anche più scioccanti, in effetti non c'è più il porno, cioè ci si limita, dico limita per usare un eufemismo, a zone talmente oscure dove non è più l'obiettivo quello del porno horror cinematografico di cui abbiamo parlato poco prima, cioè non c'è una trama che sia gotica o che sia ambientata nell'epoca delle streghe o via discorrendo, ma ci sono dei fatti veri, ci sono delle vere azioni violente nei confronti di persone che non stanno recitando, e quindi evidentemente quello non è più porno. Quindi è stata un'esplorazione in tutti i luoghi del contemporaneo che ammiccano o che si avvicinano, che vengono etichettati con il termine porno, per tentare di capirne le derive e anche da dove tutto questo ha avuto inizio. Per cui anche facendo una banalissima visione dell'indice, che però può essere utile per capire un po' quali sono stati i punti saldi attorno ai quali ci siamo aggrappati per poter costruire un percorso che non è stato semplice, perché andava a rimestare nel torbido, insomma, non è la storia del porno, ma erano un po' le genealogie da dove siamo partiti per arrivare a questa condizione porno culturale, cioè di normativizzazione della pornografia. E dicevo, queste origini, abbiamo iniziato dalle origini rinascimentali, quindi da come viene visto il corpo, come era visto il corpo anatomicamente parlando nel Rinascimento, quello che è accaduto durante il Barocco, e lì entra un po' la vena morbosa, fino a giungere nel primo capitolo a ciò che è accaduto con, da un lato, l'ingresso della televisione nelle case, e quindi dal cinema alla televisione c'è stato già uno scarto molto forte, fino poi a tutti i fenomeni che con il web sono diventati proliferanti alla portata di tutti, e quindi hanno inventato categorie, come prima dicevate, del nazi porno, eccetera. Se si vanno a vedere le categorie dei siti porno, si trovano delle definizioni che non è che vengono pescate da una particolare posizione, così come era per il Kama Sutra nella cultura orientale, dove si identificava una posizione con un nome. Vengono inventate delle categorie perché evidentemente si consumano troppo velocemente i contenuti porno contemporanei, bisogna alzare la posta, inventarne di nuovi, e quindi anche la creazione, l'estrema creatività con cui vengono generate le nuove categorie, alle volte addirittura delle finte categorie per poter attirare l'attenzione, in alcune ne abbiamo trattate, se volete dopo ve ne racconto qualcuna. Ma che non, se non sbaglio, Claudia, cioè, ci sono addirittura gli Oscar per alcuni tipi di cinema e categorie a cui certo ti riferisci, c'è proprio un dato di premio e quant'altro. Sì, certo, infatti un altro aspetto che abbiamo trattato è un paragrafo che si intitola Il porno fuori dal porno, ovvero il festival. Tanto c'è stata una pornificazione del nostro quotidiano che hanno iniziato a essere finanziati festival dedicati al cinema porno. Ferma, io... mettiamo un altro brano e ne parliamo dopo. I festival, okay. I festival mi mancavano. Sono bellissimi. Thank you. This is not an exit, siete su Register del Capo, sono le 21:57 minuti primi, più o meno. E finalmente un po' di pornografia, vabbè. È un po' di lounge remix in sottofondo. Però dicevamo prima che negli anni 90 le cose stavano cominciando a sdoganarsi, ma non era completamente vero, perché questa compilation di remix, Super Sexy Swinging Sounds dei White Zombie, in realtà usciva in due versioni. Con la cover girl completamente nuda e con la cover girl in bikini per le catene di supermercati. Eh sì, perché i White Zombie vendettero 2 milioni di copie sia con Astro Creep che col disco precedente, quindi vendevano veramente tanti e vendevano anche nei supermercati. Ma il Walmart, il dirigente di Walmart, probabilmente, come dire, la digerivano male la pornografia. Qualcosa è successo però dal 95-96 al 2016, in questi 20 anni, forse, chissà, anche Walmart avrebbe messo la versione nuda o no, o comunque rimasto da pruderie. Per ritornare a quello che dicevamo prima, che ti sei stupito del fatto che esistessero dei festival, non solo ce ne sono, ma sono dei luoghi dove ricevono tantissimi finanziamenti, e questo deriva da una ragione abbastanza semplice e chiara, ovvero che in ambito accademico sono nati nel corso della fine del Novecento, negli anni 2000, un ambito di studi che è proprio il porn studies. Come cultural studies? Come, allora, fanno parte di tutte quelle discipline che a partire dai cultural studies hanno iniziato a studiare, hai detto bene, degli aspetti del sociale e del quotidiano sempre più minimi, cioè delle cose sempre più precise. I porn studies giungono alla fine di un filone più ampio che riguarda i gender studies, quindi tutte le questioni relative al genere, i queer studies, e quindi il corpo, la corporeità queer e via dicendo, e porn studies hanno una parte molto legata allo studio del film, inteso proprio come linguaggio filmico, e quindi film studies, ma si incentrano sullo studio del linguaggio filmico all'interno della cinematografia porno. Questo sdoganamento accademico ha ovviamente legittimato il tema, cioè gli ha dato una sua capacità di essere indipendente da tutti quei discorsi che lo dovevano invece ogni volta giustificare, e quindi da tutto quel anche vetero femminismo che per lungo tempo ha mortificato tutta la cultura legata al porno, alla pornografia tradizionale. Per cui, per esempio, esiste un festival a Toronto che si chiama Feminist Porn Awards, e che, per darvi un'idea, ha tra le categorie in concorso che vengono poi premiate, in ordine alfabetico ve l'elenco, anal, big budget, bondage and kink, educational, quindi c'è anche il filone educational, for couples, per le coppie, independent, queer, romantic, storyline, straight, group sex, trans e via discorrendo. Questa questione delle categorie nel festival è particolarmente degna di nota, perché ho avuto la fortuna anni fa di conoscere a Berlino Jürgen Brüning, che è stato il fondatore del Berlin Porn Film Festival, che è stato il primo. Ops, l'abbiamo persa. Beh, rimediamo presto. Torniamo subito, non preoccupatevi. Bari lontana. Sempre This Is Not an Exit dal vivo, abbiamo recuperato Claudia, dico bene? Sì, ci sono. Eravamo rimasti in un festival berlinese del porno, un organizzatore, sì. Dico bene? Sì, sì, eravamo rimasti al Berlin Porn Film Festival. Che tutte cose che troviamo nel tuo libro. Sì, esatto, è uno un altro capitolo del libro Porno Cultura, Viaggio in fondo alla carne, il sottotitolo, edito da Mimesis. E gli autori siamo io e Vincenzo Sussa, quindi è un libro scritto a quattro mani, pensato sicuramente insieme nel corso di... è stata una lunga scrittura, ci abbiamo impiegato 3 anni a tirare fuori questa ricerca. Nel frattempo c'era stato un festival a cui abbiamo partecipato a Pisa, l'Internet Festival, con una sessione che avevamo chiamato Porno Cultura. C'erano state delle sperimentali ricerche rispetto ad alcuni campi e poi è maturato l'intero volume con la consapevolezza di avere individuato la strada, la direzione che volevamo intraprendere, che si situa... che passa anche da Berlino a questo punto. Passa anche da Berlino perché si situa un po' al di là dei discorsi che sono stati fatti spesso a voler giustificare il porno o a raccontarne la storia. E quindi, per esempio, un aspetto che io ho trovato molto illuminante è stata la fortuita occasione di incontrare il fondatore di questo festival berlinese, Jürgen Brünig, che ha un passato di regista e produttore della prima casa di produzione cinematografica di porno gay tedesca, che si chiamava Cazzo Film. Che ovviamente Cazzo Film? Sì, esatto, che non essendo un termine tedesco, ovviamente a noi fa sorridere, ma in Germania veniva chiamata come una parola straniera. È stata una casa di produzione di film porno gay pionieristica, la prima casa di produzione al mondo di film porno gay. Poi lui è uscito di là, ha fondato la Wurst Film, Wurst è una metafora tedesca che indica la stessa cosa, e quando ha messo su questo Berlin Porn Film Festival l'ha fatto con una prospettiva estremamente innovativa, ovvero lui si è detto: in effetti se vogliamo fare un festival del cinema porno dobbiamo iniziare a distinguere i generi cinematografici del porno, perché ci possono essere persone che hanno bisogno di sapere se stanno entrando in sala a vedere un film appunto che tratta il tema non so, di coppie omosessuali in uno scenario bondage, oppure se qualcuno vuole andarsi a vedere una commedia B-movie di quelle in cui ti fai soltanto delle grasse risate e c'è, diciamo, quello che noi chiamiamo il pornazzo all'italiana. Quindi questa idea della categorizzazione nel programma, con una leggenda che lui ha individuato di disegnini in modo tale che uno si sceglieva proprio tutti i generi, per cui c'erano anche generi di carattere solamente artistico, perché c'è anche un filone della videoarte del porno. Pensiamo ad esempio a quella bellissima opera di Chris Cunningham, noto regista dei videoclip di Aphex Twin, nonché di tantissime altre pubblicità, quindi ci spostiamo in ambito elettronico, che realizzò un lavoro meraviglioso che si chiama Flex, che fu presentato a Venezia in Biennale diversi anni fa. È un video che uno non lo giudicherebbe mai porno secondo il classico stilema, appunto, della vecchia pornografia, ma di fatto lo è, ma ha una portata artistica notevolissima, tant'è vero che viene considerato video arte. Se vi incuriosisce, andatevelo a vedere, perché in effetti si capisce come è uno scenario, appunto, porno culturale, espanso, diffuso, dove ci sono dei generi differenti. Non è detto che a tutti piaccia la stessa cosa, pur magari essendo interessati alla cultura del porno. Quindi abbiamo tentato di esplorare un po' tutti gli aspetti della nostra contemporaneità, dove si è instillata una forma di erotismo che ha superato l'elemento puramente erotico, scivolando su una visione del corpo esposto. Ad esempio, c'è un altro capitolo in cui mi sono occupata del fenomeno delle love dolls, ovvero le bambole in silicone, che non sono le bambole gonfiabili, sono delle bambole realizzate in silicone a grandezza reale, costano tra i 8, 10, 12 mila dollari. Meglio non usarle come canotti. No, non le puoi proprio usare, perché hanno lo stesso peso del corpo di un essere umano. Pesano tra i 45 e i 50 kg, sono proprio pesanti. Meglio di no, e poi costano, uno affonda e ha anche speso tanto. È speso tantissimo. È un fenomeno che ho avuto modo di studiare ed è estremamente affascinante, perché lì ci si trova di fronte a delle opere d'arte, cioè sono dei pezzi unici, ognuna diversa dall'altra, la puoi ordinare in rete. Il mercato ovviamente è al 99% di uomini che acquistano bambole femminili, un mercato composto, molti di questi uomini sono gay, quindi la finalità non è neanche unicamente lo scopo sessuale, ma di prendersi cura di questo oggetto erotico, vestirlo, tenerlo a casa, portarlo in macchina, fare una passeggiata, fotografarlo. Una mega Barbie. Una mega Barbie di cui prendersi cura. C'era un film di qualche anno fa che si intitolava Lars, una ragazza tutta mia, di un regista nord europeo, in cui si racconta proprio la vicenda di queste love dolls. Si tratta proprio di vere e proprie creature di compagnia, che però sono bambole e sono, dal punto di vista sessuale, corredate di tutti gli organi, gli orifizi, tutte le parti del corpo necessarie per avere un rapporto che sembra essere praticamente autentico, perché il silicone è uno di quei materiali molto simili alla pelle, per cui se ogni giorno non lo curi con delle creme adatte si rovina. Quindi è un rapporto morboso con queste bambole, molto affascinante questo capitolo, diciamo, dei feticismi contemporanei, che viene un po'... sembra uscito da un romanzo di William Gibson, sembra roba cyberpunk. E con questo mettiamo uno che sembra uscito anche lui, ritorniamo ai White Zombie, perché anche Rob Zombie sembra uscito da un romanzo cyberpunk. Perhaps you had better start from the beginning. Perhaps you had better start from the beginning. Perhaps you had better start from the beginning. Perhaps you had better start from the beginning. Eccoci di nuovo in diretta con Claudio Timonelli in diretta da, in collegamento, scusate, da Bari. E a parlare di pornocultura, qualcosa che non mi sarei neanche immaginato a 18 anni di poter fare una trasmissione sul porno mentre parlavo, mentre mettevo i White Zombie. L'epoca dei White Zombie, ripeto, 25 anni fa. Insomma, un sogno che diventa realtà, vabbè. Eh sì, non era ancora tutto sdoganato. Quindi la domanda mi sorge spontanea. Claudia, cosa ti ha spinto, cosa vi ha spinto a fare un libro pornocultura, Viaggio in fondo alla carne, nel 2016? Domandone. Eh sì, un domandone. Me la cavo con una prima risposta, che è in una citazione brevissima. Questo libro è molto ricco di citazioni letterarie, musicali e cinematografiche, quindi ogni capitolo ha una sua citazione, che vanno da Moana Pozzi a Enrico Ghezzi a grandi filosofi contemporanei, e anche quello che sia per me che per Vincenzo Susca è un po' la più grande ispirazione dell'argomento pornocultura, ovvero che spiega un po' il taglio e l'emergenza che abbiamo sentito a un certo punto di dedicarci a questo argomento. E questa citazione è tratta da un film che entrambi amiamo molto, ovvero Videodrome di Cronenberg, e la citazione è: lunga vita alla nuova carne. Cronenberg, tra l'altro, aveva dei passaggi, esatto, nel porno negli anni 70, all'inizio della sua carriera. Esatto, anzi, ti dirò, è proprio quel genere cronenbergiano di horror porn sci-fi, quella horror porn science fiction, che per me costituisce il fil rouge. Si tratta cioè di avere capito a un certo punto nei nostri percorsi di ricerca, che sono diversi, Susca vive e insegna in Francia, io in Italia, quindi percorsi di studio e ricerca diversi ma molto legati alle questioni dei media, delle tecnologie e della rappresentazione del corpo, e quindi di come attraverso i media, quelli tradizionali e quelli contemporanei, stiamo assistendo ad una radicale modifica della rappresentazione del corpo, dell'identità, del sé e via discorrendo. Questa indagine è diventata così un po' ossessiva che ci siamo andati sempre poi ad imbattere su questioni che da una parte o dall'altra comunque riguardavano un corpo fortemente erotizzato, un corpo porno in effetti. Quindi abbiamo pensato di mettere insieme un lavoro che partisse dal punto in cui noi siamo adesso, ovvero non si può essere contro la proliferazione di immagini di donne nude in televisione, non ha senso schierarsi continuamente in maniera un po' ottusa contro una tendenza che è già così. In inglese si direbbe is a matter of fact, e questa è la condizione nella quale viviamo, e il bagno in cui siamo immersi è dato da questi contenuti, sono ovunque dappertutto, al punto tale che le stesse linee di abbigliamento per le bambine ammiccano già a dei vestiti simili a quelli che potrebbero indossare invece le loro madri. È una condizione nei confronti della quale non si può semplicemente stare contro, perché si finisce per essere o inutilmente moralisti o per non cogliere dei segnali che invece ci vengono dal basso, cioè che sono già attorno a noi. Quindi abbiamo pensato di partire dall'attuale, cioè da dove già siamo, evitando qualsiasi tipo di legittimazione dell'argomento, evitando di dover dire della reificazione del corpo femminile, evitando tutta quella zavorra che per lungo tempo ha costretto il consumo di contenuti erotici al solo mondo maschile. Reificazione vuol dire donna oggetto, vero? Esatto, sì. Scusate, ogni tanto prendo termini di carattere scientifico. Ah, no, ma noi veniamo da ignoranza radiofonica, non c'è problema. Chiediamo. E quindi ci siamo posti l'obiettivo di raccontare lo scenario così com'è, e abbiamo scoperto che a differenza di quello che si può ancora pensare, in effetti non c'è luogo e non c'è persona che non sia, che non si imbatta in contenuti porno durante la propria giornata, di qualsiasi natura. E questo è un fatto sorprendente, non, cioè, non ci può lasciare indifferenti la familiarità con l'erotismo diffuso, espanso, fino a, a diventare più che semplice erotismo, fino a diventare appunto pornocultura. Mi sa che nel barocco non era così. No, no, no, infatti... Aspetta che metto una, mando un altro brano, poi me lo racconti dopo. Vai, vai. Yeah, I remember her saying, I'm already dead, I'm already dead, I'm already dead. Today I want you each to stand up and hold your hands in some stupid single. You're gonna get up and scream. You're gonna get up and burn an X in your head. ...22-27 minuti primi, siamo in, ai saluti di questa puntata di This Is Not An Exit, anomala perché non è così frequente che abbiamo ospiti dal vivo, che si, in diretta telefonica, che ci raccontano cose per noi abbastanza inconsuete e soprattutto con una profondità di analisi di questo livello. Quindi ringraziamo molto Claudia. Sono io che ringrazio voi e che il viaggio ai confini della carne abbia inizio per tutti. Grazie di questa ospitalità. E speriamo di incontrare il tuo libro in qualche libreria. Ricordo, sì, si chiama Pornocultura. Viaggio in fondo alla carne. È già in libreria, quindi si può trovare, potete comprarlo. Va bene, ti ringraziamo tantissimo di essere stato qua con noi, quasi un'ora e mezza. Grazie a voi, grazie davvero. E beh, a questo punto buonanotte a tutti e a tutte e a giovedì prossimo. Ciao. Ciao.